in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana inizierei dalle copertine dell'Economist e come sempre, come ripetiamo da tante settimane, è ancora difficile trovare degli argomenti, soprattutto in primo piano, sulla stampa internazionale e naturalmente su quella italiana, che non siano in qualche modo legati alla pandemia. E però questo tema, adesso capirete perché dico così, in qualche modo ha un legame con la pandemia. Il titolo della copertina dell'Economist, completamente nera, listata a lutto, potremmo dire, è The Power of Protest, cioè la potenza, il potere della protesta. E sotto queste parole c'è una piccola figura molto stilizzata di una persona, di un uomo chiaramente afroamericano, inginocchiato. E sapete che è il gesto che è stato scelto da molte persone per solidarizzare con le proteste seguite all'uccisione di George Floyd a Minneapolis, per mano tra l'altro, ma quello era un diverso tipo di inginocchiamento, appunto, di una manovra di un poliziotto bianco che con il ginocchio ha premuto sul suo collo per esattamente 8 minuti e 46 secondi e ne ha causato la morte. Ma perché dico che in qualche modo c'è un risvolto legato alla pandemia? Perché questa uccisione di un afroamericano da parte di un poliziotto è sicuramente l'ennesimo, lo spiega molto bene l'Economist, l'ennesimo episodio di violenza apparentemente motivata anche da quello che viene definito razzismo, anche se ricordo sempre che la razza umana è una sola, però per capirci, quindi discriminazioni verso chi ha la pelle sostanzialmente di un colore diverso è soltanto l'ennesimo episodio, le discriminazioni verso gli afroamericani negli Stati Uniti vengono da lontanissimo, gli afroamericani sono circa il 14% della popolazione americana, ma costituiscono oltre la metà della popolazione carceraria. E soprattutto durante la pandemia sono stati molto più colpiti di qualsiasi altra minoranza che compone il mosaico americano. Questo perché sono tendenzialmente hanno condizioni economiche minori, quindi minor accesso alle cure a pagamento, minor accesso ai programmi di sanità privata, e quindi la pandemia ha esasperato quella che già negli Stati Uniti era una disuguaglianza percepibile. Da qui quindi appunto poi l'analisi invece di come queste proteste scatenate da un episodio su terra americana a Minneapolis si sono poi sparse in tutto il mondo, come sappiamo. E a proposito invece proprio di pandemia, ho notato, insomma, ho seguito un po' i giornali spagnoli per capire, dopo i proclami delle settimane scorse, quali potevano essere le norme per l'apertura dei confini, visto che Spagna e Italia sono tra i paesi europei forse quelle che più hanno bisogno di questo volano del turismo, dell'industria del turismo. E El País ha spiegato che dal 15 di giugno c'è un primo via libera ad andare in Spagna, ma solo nelle isole Baleari per i tedeschi, e poi dal 1 luglio invece potranno arrivare da praticamente tutti i paesi. Questo ha un po' scatenato anche l'ironia, ma in realtà è più che ironia di ABC, che è un quotidiano catalano molto critico sempre con il governo Sánchez e in generale con il Partito Socialista, che ha messo in copertina tutti i governanti dell'Europa, o quasi mostrando che appunto tutti hanno aperto o comunque hanno una data certa per aprire i confini e la Spagna no. A proposito delle proteste che abbiamo detto sono diventate globali, sapete che hanno preso anche una forma, oltre che quello slogan Black Lives Matter, cioè le vite dei neri sono importanti, c'è stato anche una protesta per tutte le statue di generali della Confederazione degli Stati del Sud, che erano gli stati che durante la guerra civile americana finita nel 1863, che quindi durante quella guerra civile erano naturalmente quelli che difendevano la schiavitù, che poi fu abolita perché avevano vinto gli stati del nord, e le statue di quei generali molte persone chiedono vengano abbattute, tolte. Addirittura c'è chi vuole che il nome di quei generali sparisca, per esempio, dai nomi delle basi militari americane. Donald Trump ha detto di essere contrario. Ecco, questo tema, quello del rapporto con con personaggi che in passato si sono macchiati di grandi crimini, ha colpito molto i quotidiani tedeschi, perché naturalmente lì il tema si pone, si è posto in passato, ma si pone ancora oggi in alcuni casi per tutto quello che riguarda gli edifici costruiti durante il periodo del nazismo e anche alcuni monumenti o per esempio alcuni musei, mentre in Spagna, appunto il Congresso dei Deputati in Spagna ha approvato con una vasta maggioranza una proposta di legge che dà facoltà al governo di gestire la revoca di medaglie e onorificenze conferite a persone che in epoca franchista, il periodo buio della dittatura franchista spagnola, si macchiarono di torture e abusi. E vedremo appunto poi come, perché sapete che anche nel Regno Unito è stata addirittura buttata in acqua la statua di un trafficante di schiavi, non di un trafficante, di un mercante di schiavi, perché all'epoca era un mestiere legale, di un mercante di schiavi che portava, faceva attraversare gli schiavi dall'Africa, attraversava l'Atlantico e quindi andava verso, all'epoca naturalmente non erano ancora gli Stati Uniti, ma l'America. E la statua tra l'altro nel frattempo è stata recuperata, ne hanno dato notizia a molti quotidiani e siti e televisioni britanniche, ma appunto sta succedendo anche in Gran Bretagna questo confronto con simboli pubblici di un passato di violenza, di guerre, di discriminazioni, di abusi. A proposito invece di Trump, che abbiamo nominato prima, è successo che la CNN ha dato i risultati di un sondaggio che vede Joe Biden, il candidato democratico, in vantaggio di 14 punti, sulla spinta sia della situazione dell'economia, che negli Stati Uniti è peggiorata come in qualsiasi paese per gli effetti della pandemia e del lockdown, anche se gli Stati Uniti poi hanno una previsione di calo del PIL che è inferiore a quella di altri paesi, si parla di 6-5-7%, per l'Italia siamo oltre al 10, per darvi un'idea. Comunque, quindi da una parte gli effetti economici e dall'altra la reazione di, o meglio, quello che sta succedendo, i disordini e la reazione che sicuramente non è stata da persona che vuole calmare le acque, ma anzi ad alcuni è sembrato voler soffiare sul fuoco, di Donald Trump ai disordini legati all'assassinio di George Floyd. E Donald Trump si è talmente arrabbiato che ha chiesto, l'ufficio della campagna elettorale del presidente ha chiesto alla CNN di ritirare questo sondaggio e di scusarsi per la sua pubblicazione. Naturalmente il network, che ricordiamo fu fondato da Ted Turner, che poi l'ha venduto, Ted Turner è sempre stato apertamente democratico, e la CNN è comunque, diciamo, cercano, per quello che posso capire io seguendola, cercano di dividere molto chiaramente i fatti dalle opinioni, però l'opinione ufficiale, la linea editoriale potremmo dire della CNN è sicuramente democratica e soprattutto in questo momento anti-Trump. A proposito di effetti collaterali della pandemia, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, ma Financial Times ci è tornato questa settimana, ed è il tema della Brexit. Sapete che in teoria, sì certo, c'è stato il referendum, c'è stata l'elezione di Boris Johnson, c'è stata la definitiva approvazione del piano di uscita dall'Unione Europea, ma è anche vero che, come ci avevano spiegato, tutti i dettagli avrebbero dovuto essere negoziati da qui al 31 gennaio del 2021, e come potete immaginare, come abbiamo spiegato anche nelle settimane scorse, è un po' tutto bloccato. E Financial Times per esempio questa settimana ha spiegato che il governo britannico ha abbandonato il suo piano di introdurre controlli completi sulle merci alle frontiere con l'Unione Europea dal 1 gennaio 2021, quando terminerà appunto questo periodo di transizione post-Brexit, optando invece per un regime temporaneo più leggero. Come dicevamo, insomma, questo è un po' il fatto che, esattamente come i sistemi sanitari sono stati travolti dalla pandemia e le cure di altre malattie croniche sono state trascurate, hanno lanciato l'allarme i quotidiani britannici per esempio sui pericoli che corrono i pazienti oncologici, avendo saltato tanti controlli, ma come i sistemi sanitari sono stati travolti, diciamo anche i sistemi politici, e quindi questioni che non sono direttamente legate alla pandemia sono passate in secondo piano. Tra queste, per il Regno Unito c'è la Brexit. A proposito però di pandemie e non solo, questa settimana sono stati anche lanciati due allarmi per quanto riguarda il mondo della musica classica. Dalle colonne del Guardian l'ha fatto Simon Rattle, che è un direttore d'orchestra britannico, che ha spiegato che la musica classica, già comunque più fragile come settore, come industria rispetto ad altri tipi di attività musicale, uscirà molto penalizzata dalla pandemia. E dall'altra invece, e questo articolo lo trovate su internazionale di questa settimana, tradotto dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, in Germania si parla di tutte le conseguenze su opera, operetta e anche sui festival musicali, che in Germania i festival musicali dedicati alla musica classica sono tra l'altro molto diffusi. Il problema è che naturalmente tantissimi sono stati annullati e per la Germania forse questo, secondo il giornalista della Faz, è ancora più strano anche questa indifferenza apparente del governo, della politica, diciamo, perché in Germania ci sono tantissimi giovani che comunque studiano nelle scuole di musica o di canto e quindi sono comunque anche magari vedono nella musica, in quella classica, anche una prospettiva di lavoro per il futuro. Ultimissima segnalazione, visto che abbiamo parlato di musica, musica completamente diversa, dal New York Times, tradotto da Internazionale, un articolo su Renata Flores, che è una ragazza nata nel 2001, peruviana, che canta nella lingua delle Ande, il Quechua, ma canta, mescola la sua cultura con appunto le sonorità contemporanee, rap, reggaeton e appunto trap. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.